fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho sempre trovato affascinante stabilire la percezione che ha il mondo esterno della follia. Naturalmente parlo della mia follia. Cosa intendo per essere folle? Essere folle intendo avere un pensiero deviante rispetto al pensiero comune. È una piccola, innocente, innocua follia che non mi porta da nessuna parte, se non nel fare scuotere capi, nel fare rabbrividire buonsenso comune, se non far sparlare, raccontare, definire, immaginare, costruire. Ma esistono casi, esistono storie di personaggi in cui questa percezione di incompatibilità con il senso comune ha un'accezione molto profonda. La follia diventa devianza, la devianza diventa emarginazione, l'emarginazione diventa sospetto di comportamento criminale. Il comportamento che poi avviene, viene in parte messo in corrispondenza con qualcosa di profondo, di irreversibile, di atavico, di genetico, che fa mettere un essere umano in una sorta di circolo infernale, di distanza dalla società civile, che può elaborare quotidianamente la sua follia attraverso mille comportamenti, attraverso mille maniere di pubblico consenso, in un luogo dove il folle viene isolato dal mondo civile. Beh, questa mattina proprio vorremmo raccontare alcuni episodi di devianza, di follia, di isolamento, di riscatto, per quanto possibile. Avrei riconosciuto l'odore del piede destro di mia madre anche se mi avessero mischiato tutti i piedi in circolazione. Dorme immobile come un soldato, non è altissima, ma anche il letto è corto e il suo piede destro mi arriva giusto alla spalla. Mia madre è un soldato, sì, immobile, con gli occhi chiusi, sempre allerta però. Alle volte basta un piccolo movimento che lei dice pronta: «Che c'è? Dormi, dormi?» In realtà sono le calze che trattengono un odorino misto alla lana, le capre puzzano. Ricordo Bianchina, latte, lana e anche un po' di luna quando la luna c'era, ma la luna non ha odore se non quello di notte di campagna dove gli alberi respirano tutti insieme e anche la terra suda e fatica. Chissà se dorme quest'ora Bianchina, formaggetta viva che si trasforma per magia della notte nel piede di mia madre. Le vedo capovolte, lei e Olimpia, un angelo dai capelli neri, l'unico angelo in carne ed ossa che ho incontrato. Era piovuta in casa durante una notte di strilli trattenuti e vento fuori, forse sparata dalla luna e acchiappata al volo dalle mani della mammana, mentre un silenzio tutto intorno e dentro me mi spaccava le tempie, perché sono sicuro conteneva delle frasi che mi parlavano e che non riuscivo a sentire. La scuola certe cose non le spiega, magari erano degli ultrasuoni, mi ci vorrebbe un cane traduttore. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Giuseppe Neri, lo conoscete bene, neuropsichiatra, mio amico, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Giuseppe, hai sentito leggere un brano, un'impressione? Cosa ci cogli te di sintomi di devianza in quello che hai ascoltato? Non ti dico ancora di che si tratta, di chi si tratta, qual è il contesto. Beh, mi sembra molto molto drastico cogliere dei sintomi di devianza. Invece mi piace molto di più pensare a una cosa che ha a che fare con quello che tu mi chiedi. C'era una componente olfattiva importante, descritta con accuratezza, e allora è importante riflettere sul fatto che la memoria olfattiva si va a depositare nel nostro cervello in un'area molto delicata che è adiacente ad altre aree con cui, come a te piace dire spesso, noi alluciniamo. E allora è il discorso di come noi utilizziamo i messaggi che il mondo circostante ci manda, come li elaboriamo, in quale trama di tessuto li inseriamo all'interno della nostra mente, che può fare in modo che questo poi, rispetto al consesso sociale in cui ci troviamo ad operare, possa essere da altri valutato fuori dei paletti della cosiddetta norma. Se fossimo soltanto 30 anni fa, nel pieno della contro e della antipsichiatria post legge Basaglia, sarebbe stato invece utilizzato estremamente in termini antagonistici. Quindi è tutto da valutare con estrema attenzione e con un granello di saggezza, senza voler estremizzare o polarizzare le opinioni. Luciano Lanzarotti, che ha letto questo brano, che è tratto dal suo romanzo Il piccolo Lutring, edito da Neri Pozza, una mia antica amica, voce della radio, attrice, scrittrice, in questo caso anche romanziera. Luciana, cosa esattamente hai letto poco fa? ho letto l'incipit, che l'incipit è naturalmente la cosa che poi ti porta anche commercialmente a leggere il resto del romanzo, perché se l'incipit funziona non ti fermi più. Però io non l'ho fatto scientificamente, mi sono abbandonata a quello che diceva il professore, ad un gusto interiore, quindi ad un gusto anche degli odori, perché la percezione olfattiva manca ormai da troppe zone della nostra vita, dalla televisione, dalla radio, è tutto suono, è tutto visione e l'olfatto non c'è. Però per quanto riguarda lo spazio, come in una bellissima trasmissione di alcuni giorni fa che tu hai fatto relativa allo spazio, qui si tratta di uno spazio veramente reale e molto risicato, perché si tratta di un bambino che viene nel 1956 a vivere a Genova, dove noi abbiamo risieduto, quindi la conosciamo bene. Viene a vivere a Genova perché il papà viene assunto e fa il guardiano di notte. Allora questo bambino si trova a vivere in una stanza così procurata dalle suore, però era una stanza che veniva gestita da una specie di maitresse, c'erano tutti i marinai, loro erano l'unica famiglia normale, però avevano a disposizione un unico letto dove dormivano la testa, la mamma e la sorellina, e ai piedi loro due. Quindi il piede destro di sua madre arriva alla sua spalla e lui ne sente questo odore. Questo piede poi è correlato di calzino di lana di capra, perché vengono da un paese dove le capre c'erano, e quindi tutto questo lo fa entrare dentro a dei flashback già così piccolo che gli ricordano i momenti della partenza, i momenti di tutto della sua vita, finché lui si trova lì coinvolto in una situazione dove Genova se l'immagina così bella, ma così bella, e soprattutto che è una città che gli darà da mangiare due volte al giorno, invece finirà non solo per non mangiare, ma finirà pure in galera, dalla galera ai manicomi criminali. Ecco, il protagonista di questo romanzo che tu hai raccontato è Giovanni Campanile, che per alcuni periodi fu definito il nemico pubblico numero uno. Parlaci di questo personaggio, parlaci di come l'hai visto, come l'hai sentito e come l'hai raccontato. Allora, lui è stato visto come il nemico perché ha spaccato in 20 giorni 60 vetrine e sotto le feste di Natale, proprio come adesso. Lui improvvisamente... Più o meno erano gli inizi degli anni 60. Era proprio tra il 67 e il 68. Ah. Il capodanno sarebbe stato il 1968. Quindi nel 67 lui fa queste rapine, spacca le vetrine perché è stato accusato ingiustamente di aver spaccato tre vetrine. Ora, nel gergo, la spaccata vuol dire non spaccarle così con una pallonata o un sasso, perché fai una bravata. Per rapinarle. Quindi allora i vetri erano molto, molto sottili. Lui spacca queste tre vetrine per mettersi al pari con la giustizia che lo accusa. Quindi qui viene fuori la prima cosa di questo romanzo. Questo romanzo è un romanzo, inutile dire, molto, molto raccontato, con tante scene, tanti personaggi, però dentro ci sono tre punti fondamentali, e cioè si potrebbero sintetizzare in uno solo: l'invisibilità. E quindi questo bambino che viene dal sud, che crede di essere felice, di essere visto, non viene visto da nessuno. Io me lo ricordo perché, insomma, c'ero in quegli anni, ero piccolina, però a scuola c'erano i bambini meridionali che erano sempre negli ultimi banchi, non studiavano mai perché poveracci, avevano sette fratelli, quindi dovevano fare da mamma o papà ai fratelli. Io lo dissi proprio a mia madre, dissi: ma come mai quelli là sono così piccoli di statura? Non che io fossi un gigante, però ero ancora più piccoli di me nell'ultimo banco. Dice: perché non studiano? Dico: perché tu sei fortunata, perché io posso farti ripassare le lezioni e loro hanno sette fratelli, devono fare da mamma. E allora io ho capito questa grande realtà quando mi sono imbattuta in pezzi di giornali che parlavano di questo bambino così felice di venire qua e poi invece non visto da nessuno, e quando lo vedono lo chiamano Terrone. E allora lui incomincia a frequentare dei bambini come lui, incominciano a studiare una storia magica. La storia magica è quella di andare e poter conquistare il mondo e poter avere qualcosa e fare dei piccoli furti. Il primo furto che fa veramente lo fa la maestra, perché è ingiusta la maestra, lui fa furti per ingiustizia. Il secondo furto lo fa in un casino, perché i bambini più grandi lo portano a casino. E lui, mentre tutti guardano le puttane e si strusciano, lui è troppo piccolo, prova qualche sensazione. Si frega i soldi. A un certo punto si frega i soldi della cassa, sì. E finché poi lo accusano ingiustamente di queste tre vetrine, lui, per non andare in galera, scappa, si nasconde per 20 giorni, spacca tutto, ne spacca 60. Ecco, e qual è l'argomento e la fase della sua vita per cui noi all'inizio abbiamo cominciato a parlare di devianza, di follia e di manicomi? Allora, quando vieni isolato, quando non ti guarda nessuno, quando tu hai bisogno di protagonismo, fai mille gesti, e si può fare anche il gesto che ha fatto il piccolo Lutrin per diventare protagonista, però poi finisci in galera con chi? Con gente, se non è uguale, peggio di te, quindi non puoi imparare assolutamente niente in galera. E poi, dato che non impari niente, ti incazzi ancora di più, si può dire, no? E a questo punto spacchi tutto. Quando spacchi tutto in galera, lì è finita, perché ti devono togliere l'ultima parte di te, l'identità, il cervello, manicomio, e in quel caso manicomi criminali. E lui dove andò a finire? E lui andò a finire nei manicomi criminali perché li acchiappavano tutti, li mettevano lì. E c'erano tre categorie fortissime nei manicomi criminali, a parte quelli che se li volevano sbolognare perché volevano l'eredità, eccetera, eccetera, solita storia. C'erano tre categorie. C'erano quelli che davano fuori di matto, se li volevano togliere di torno, e quindi li mandavano nei manicomi criminali dalle galere. Poi c'erano gli omosessuali, perché davano molto fastidio, a meno che non piacessero ai femminielli che stavano dentro alle galere stesse, che quindi allora però se si rifiutavano al femminiello, era pazzo, lo mandavano al manicomio criminale. E poi c'erano i politici di sinistra, che quelli facevano il giro, era proprio un tour turistico dei manicomi criminali, finché non ci morivano molti. Perché... Ma che è successo che è morto il manicomio criminale di politico? Sono morti tanti anonimi che però facevano parte di cellule politiche di sinistra. Allora, per esempio, se tu ti vai a leggere o vi andate a prendere, che però non è più in commercio, bisogna andare nelle biblioteche, manicomi criminali della Marina Valcarenghi, trovate proprio tutte le dichiarazioni scritte, le interviste, le dichiarazioni di tutte le atrocità. È talmente atroce questa realtà, talmente atroce, che io per scrivere questo romanzo, dato che lui è andato a finire in quei manicomi criminali, non ce la facevo a leggere il libro della Marina Valcarenghi, capito? Perché, che ti posso dire, li tenevano legati per ore e ore al letto di contenzione, dove poi gli stessi assistenti, che erano dei matti considerati meno matti, andavano lì e facevano le pulizie con scopettoni, insomma cose indescrivibili. Allora fermiamoci un secondo, Giuseppe Neri, riportiamo quella che è l'esperienza e l'esplosione romanzesca di Luciana Lanzerotti in quello che tu puoi riportare come realtà storica, come vita vissuta, come passaggio di un momento che oggi sembra comunque superato. Una prima riflessione è puramente storica, cioè noi siamo nel 2009, sono passati 31 anni dalla legge del 1978, che è la legge 180, che modificò radicalmente l'assistenza psichiatrica in questo paese. Allora bisogna capire due cose. Uno, quello che dice la Vulgata fu la legge che chiuse i manicomi, esatto. Questo accadde. Allora, il problema che bisogna dire con molta chiarezza e senza far polemiche inutili. Uno, abolire per legge dei luoghi inappropriati e criticabili di cura non può significare, come per molti è significato sotto alcuni aspetti, abolire le condizioni relative alle persone che soffrono di certi disturbi, perché quelle purtroppo non sono abolibili con un non si possono abolire con un voto del Parlamento. Uno. Due, la legge precedente era dell'inizio del Novecento. Ci sono 80 anni dentro i quali i nostri ospedali psichiatrici, che erano due categorie, perché dalla fine del Settecento e inizio del Novecento e dell'Ottocento esistevano dei conventi trasformati da Aversa a Reggio Emilia, da Montelupo Fiorentino a Barcellona Pozzo di Otto, in una strana commistione fra carcere ed ospedale psichiatrico. Si chiamavano manicomi giudiziari e alcuni esistono ancora. L'altro, che veniva chiamata istituzione totale, era il luogo nel quale le persone che esistevano ai tempi di Areteri, Cappadocia 2800 anni fa e esistono ancora oggi, che hanno problemi veri, importanti dal punto di vista del loro stare al mondo e interagire con i loro simili, quelli che noi chiamiamo tra virgolette matti, avevano bisogno di essere trattati. Allora è verissimo che erano diventati dei luoghi spesso indegni della specie umana, con pochissimo rispetto per le persone. Il guaio è stato che bisogna tenere presente che quello che lei descriveva, i letti di contenzione, il buco, erano strumenti datati dal 1800, inizio 1900, e che si erano per varie motivazioni protratti fino agli anni 50-60. Sì. Allora, le due cose vanno viste in un contesto storico, culturale, che si andava modificando e che sicuramente è totalmente diverso da quello che viviamo al tempo di oggi. Lei sa, vero, sicuramente avrà letto anche Manicomi criminali della Valcarenghi, che tutta questa storia è finita grazie ad un filmato che è stato registrato, che esiste ancora, di 5 minuti all'interno del manicomio di Aversa, da Aldo Trevini e da altri, tra cui c'era questo Giovanni Campanile, il mio piccolo Lutring, e quindi grazie a questi 5 minuti si sono sapute le atrocità, perché altrimenti si andava avanti ancora, cioè poi le cure sono doverose per chi ha dei bisogni, però bisogna vedere poi che cure. Facciamo un attimo, vorrei ritornare, Luciana, alla storia del piccolo Lutin, perché da lì siamo partiti. Questo passaggio in manicomio al personaggio del tuo libro, poi in cosa è sfociato? Come mai lui adesso ancora è rintracciabile? No, è uscito, lui vive. È uscito grazie a questo filmato, 5 minuti, perché lui si passa giusto fino agli anni 70. Vediamo di ricostruire la storia. Sì. Lui spacca le vetrine, fa le rapine, va in galera, dalla galera passa al manicomio di Aversa. Sì, perché ingoia un cucchiaino, quindi lo ritengono matto e va al manicomio. No, prima va ad altri manicomi criminali tipo Montelupo e viene smistato anche lui, fa questo giro di manicomi finché a un certo punto riesce a sopravvivere perché è intelligente questo ragazzo, quindi si procura forse anche delle simpatie, per cui va in lavanderia, e questo è vero, per lavarsi e per lavare, perché sono tutti sporchissimi, quindi va lì per avere questo contatto con l'acqua, col sapone, l'acqua che è esterna e che quindi gli porta anche il di fuori, e a un certo punto incontra questo Aldo Trivini, che è in rapporto col Soccorso Rosso di Franca Rame e Dario Fo, e gli dice: guarda, io posso avere un Super 8, erano appena usciti questi Super 8, tu ci stai a filmare con me, abbiamo tempo 5 minuti, perché tanto durava il nastrino del Super 8, però qualsiasi cosa, in qualsiasi punto noi giriamo questa antica telecamerina, questo Super 8, noi potremo prendere una realtà che secondo me ci fa uscire. Quindi fa un filmato di denuncia. Quindi fanno un filmato di 5 minuti all'interno, riescono a farlo uscire, e da lì poi ci sarà un processo, chiudono i manicomi criminali, il direttore del manicomio di Aversa si impicca, perché non poteva fare altro. Cosa poteva fare? Altro. Ci sono mille alternative all'impiccarsi. Vabbè, poteva farsi il carcere a vita. E forse quindi ci fu un processo in cui era, diciamo, scatenato da questo filmato fatto dal personaggio del tuo libro. No, fatto da un altro, però io naturalmente, dato che questo è un romanzo, gli metto in mano io questa cosa, gli faccio vivere personalmente, insomma, visto che lui deve essere il simbolo della segregazione umana, secondo tutti, insomma, questo è un crimine, ma non sono le 20, le 60 vetrine spaccate. Questo libro ha partecipato al Festival del Giallo, io ho detto: ma il mio non è un giallo. Dice: vabbè, ma questo è anche il Festival del Crimine, ma non è anche, sì, è un crimine, ma non sono le 60 vetrine spaccate, è il crimine di finire poi inizialmente nel silenzio e poi dentro a delle istituzioni che socialmente avevano questi presupposti, quindi non solo per lui. Quindi sono varie fasi, Luciana, del libro che hai scritto. Allora, una fase dedicata alla storia di questo personaggio, una fase dedicata alla sua degenza in manicomio. Poco, perché non mi piace scavare nel sangue, nel dolore. No, sai come l'ho risolto? L'ho risolto con dei flashback. Praticamente lui vive fino a 18 anni, fino al momento di gloria. Poi si salta a 62 anni oggi, dove lui effettivamente vive e si beve molte birrette, e sta per andare a Monaco, perché lì è curato molto meglio, cioè nel senso ha una pensione sociale, quindi lì ha degli amici e riesce ad avere un po' di assistenza, un po' di qualche cosa. Lui sta benissimo, è capace di intendere e di volere. E non riesce mai a fare questo viaggio, ritornerà verso Genova, però incontra, come Pinocchio, un sacco di personaggi, e tra questi personaggi incontra appunto questo ragazzo attore, cioè questa specularità, cioè loro si specchiano l'uno nell'altro, diventano la vetrina l'uno dell'altro, si spaccano le ossa l'uno con l'altro, si denunciano e dividono le cose, ma in mezzo ci devono essere questi anni di manicomio e di carcere. L'ho risolto con l'acqua. Cioè, tutte le volte che gli succede qualcosa piove, ed una goccia sarà testimone, perché l'acqua alla fine si scoprirà da un articolo di giornale che porta memoria, l'acqua sarà testimone di tutti gli eventi importanti, e quindi pioverà dal tetto del manicomio sui matti a bocca aperta, dove ce n'è uno che io chiamo senza nome, però un giorno parlerà, e come se parlerà, forse perché gli ha sbagliato le pere, la famosa cura, i trattamenti gliele ha sbagliate, gli hanno dato quelle dei medici, degli inservienti, quindi per tenerlo sveglio e non per addormentarlo, e quindi parla di quest'acqua e dice: piove quel giorno, piove sul mio ciuffo nero, per esempio. Ma quanto c'è di realtà e di cronaca in questo racconto, e quanto c'è invece di tua costruzione rispetto al personaggio di questo piccolo Lutring? La cronaca, dato che io non scrivo mai in modo giornalistico e neanche biografico, la cronaca sta nella base, come quando si dice quando le idee sono chiare le parole vengono. Quindi c'è la cronaca che è la mia informazione di vita e il racconto che è la mia estrema fantasia. Tutti i personaggi che incontri si muovono in modo fantastico, però all'interno di un tessuto che è una griglia ferrea, che è quella lì di quello che è successo. I fatti sono veri, il come sono assolutamente ecco romanzi. Ridotta all'osso la storia di questo personaggio, una volta esaurita la sua perigliosa vicenda di passaggio da un manicomio all'altro, che fine ha fatto? Dov'è oggi? È in questo libro e ci sì, ho capito, e questo libro, ma nella realtà no, dove ci spera molto, perché è la prima volta che la sua immagine, e fra l'altro la foto del bambino è lui e me l'ha data lui, è la prima volta che la sua immagine appare come pulita, come esempio per il mondo. Lui vive a Monaco, io non ci sono mai andata, e ogni tanto viene a Genova. Me l'hanno presentato dopo che ho letto le cronache dei giornali, l'ho voluto conoscere, e lui mi ha raccontato in modo un po' ripetitivo alcune cose della sua vita, ma mi sono bastate per capire che è pulito, è una persona buona, è una persona intelligente, è una persona sempre guidata dagli altri. Ha una forte debolezza per dire io sono forte, sono più forte di voi, io spaccherò tutto, datemi un ordine, anche che non sia giusto, ma io lo eseguirò e non farò i vostri nomi. E in questo si sente fortissimo. Beppe Neri, proprio in conclusione, dal punto di vista di questa storia che abbiamo raccontato per flash, fra aspetti visionari, aspetti reali, comunque c'è un filo conduttore ben preciso. La possibilità di un passaggio in un luogo in cui ci si sente veramente fuori dal mondo e fuori da ogni possibilità raziocinante. Eppure uno può fare appello a delle proprie risorse interiori e passarne indenne. Ecco, è possibile e come è possibile? A cosa dobbiamo noi far riferimento per passare indenni attraverso storie del genere? Ne avrei conosciute molte e la realtà romanzesca è piena di episodi da Papillon in poi che passano attraverso degli inferni veri e propri in cui la certezza di essere tra i sani o tra i folli diventa sempre più labile. È molto vero, questo è il crinale che separa è proprio fra l'aspetto restrittivo, direi carcerario, di un'istituzione totale, che era il grosso buco nero del manicomio, e l'aspetto del luogo che si prende cura delle persone che soffrono, perché mentre noi facevamo le riforme nel resto d'Europa sono esistiti dei luoghi di cura dignitosi e rispettosi delle persone che curavano i pazienti psichiatrici. Ma io faccio un esempio che conosciamo tutti, perché è morta da poco. Alcune cose che ha scritto la Alda Norini le ha scritte negli anni in cui stava al Paolo Pini, che era l'istituto neuropsichiatrico provinciale della provincia di Milano, ed era una persona con una ricchezza, al di là degli episodi circoscritti di disturbo circostanziato e limitato, con una ricchezza di spirito e con una vivacità che è andata oltre. Andrei Sakharov, premio Nobel, venne dal sistema sovietico all'epoca ristretto in un ospedale psichiatrico di tipo circoscrizionale, cioè di tipo carcerario, ma ne venne fuori. Allora il discorso è distinguere, perché io come medico ho il dovere di fare questa distinzione, fra il luogo di cura delle persone, che può essere l'ospedale per acuti che hanno l'infarto, o per quelli che hanno un problema particolare che si chiamerà diversamente, sarà molto meno costrittivo, e l'aspetto carcerario, che è un'incrostazione storica del modo con cui noi in varie parti d'Europa dal Medioevo in poi ci siamo occupati della salute mentale dei nostri simili. Grazie Beppe Neri e grazie Luciana Lanzarotti. Ricordo che l'argomento e lo spunto per questa prima parte della trasmissione è il suo romanzo Il piccolo Lutring, editore Neri Pozza, che si ispira proprio alla storia di Giovanni Campanile, che fu realmente un personaggio che passò tra galere, carceri, luoghi di detenzione psichiatrica e varie vicende, e divenne un personaggio che le cronache degli anni 60 definirono come il piccolo Lutring, ma in realtà al secolo era Giovanni Campanile. Melog 2.0. Siamo stati alla polizia. Polizia? Un uomo era stato ucciso. Tutto qui. E la fate tanto lunga. Sali lassù, in cima a questa porta. Non vedrai che cadaveri per terra e mai nessuno li raccoglie. Ho incontrato quel samurai. Tornavo a piedi, solo, al mio convento fuori città. Proprio lui, il famoso brigante Tajomaru, che terrorizzava questa regione.

forma molto antica di trasmissione di eventi storici, o perlomeno che diventano eventi storici solo quando la somma dei tanti racconti viene racchiusa e significativa costituzione di un comparto di storia. Molte volte abbiamo riflettuto su quanto la rete sia un supporto, sì, se vogliamo, futile, vacuo, suscettibile di mille falsificazioni e di mille interpretazioni, ma pur valido molte volte per mantenere vivo o vivace ancora per un tempo che va oltre la capacità biologica di mantenersi un racconto verbale, un racconto orale. Una volta parlammo di un sito fatto da alcuni ragazzi, bancadellamemoria.it, che racchiudeva dei semplici racconti quotidiani, dei brandelli di esistenza che apparentemente presi staccati l'uno dall'altro non sembrano altro che quei barlumi di lucidità che hanno gli anziani quando raccontano il mondo passato, quando lo mettono in contrapposizione con il mondo corrente, contemporaneo. Beh, invece molte volte sembrano quasi dei fulminanti memento, dei ricordi per interpretare alcune azioni del nostro presente che altrimenti non avrebbero spiegazioni nei grandi e profondi meccanismi delle letture storiche. Avevo 20 anni, 21 per la precisione. Sono stata obbligata da mio padre, che faceva il corriere, di prendere la patente del camion, perché non ce la faceva, 60 più anni, acquistò un Ansaldo 101. E io dovetti salirvi perché dovevo fare il corriere tra Settimo e Torino, Torino, Settimo, portare pacchi, oggetti, mobili. Il guaio grande era che dovevo anche indossare i pantaloni. Ci sono delle tappe fatali dell'emancipazione femminile o del porsi della donna al di fuori di un ruolo stereotipato, di un ruolo che la società, in cui la società vorrebbe per forza incasellarla. Ci sono delle tappe storiche, ci sono delle sacerdotesse, ci sono fonti ideologiche, fonti documentali su questo passaggio, ma forse la storia di questa anziana donna camionista, che apparentemente sembra quasi un personaggio di una saga di Tinto Brass, ma totalmente depotenziata di tutte quelle salaci accezioni che la fanno, potrebbero farla inserire soltanto nel racconto basso. No, la donna camionista è importante perché alcuni sintomi importanti e fondamentali danno l'essenza di quanto sia stato difficile, difficoltoso, e quale sia stato proprio il salto epocale fondamentale che ha fatto questa ragazza che, per aiutare il padre sessantenne non più in grado di svolgere la sua professione, ha preso prima nel tutto completo giro delle sue conoscenze la patente per il camion. Non c'era Settimo nessun negozio che avesse confezioni fatte, c'erano negozi di tela, così, e le donne non avevano pantaloni. Anche a Torino non potevo trovare un paio di pantaloni da donna. Allora mia madre mi ha dato un paio di pantaloni dei miei fratelli, che avevano 10 anni più di me, ben messi, un po' rotondi. Io, alta 1,50, pesavo 40 kg. Allora mamma ha cercato di rimediare, insomma. Mi vergognavo fin scendere per scaricare sti pacchetti. Noi eravamo convinti che l'acquisizione del capo di vestiario maschile da parte delle donne faccia parte della rivoluzione, le prime suffragette con i pantaloni, le prime immagini delle poetesse, delle scrittrici, delle fantastiche navigatrici che mettevano i pantaloni per scandalizzare il mondo maschile, che considerava quel capo di vestiario soltanto retaggio della propria virilità, della propria mascolinità. Il pantalone era associato a una forma di provocazione, una forma di seduzione. La donna che mostrava di avere comunque due appendici, due gambe che partivano dal suo bacino, non soltanto una sorta di campana di stoffa che tutto nascondeva. Beh, invece per Teresina la camionista il pantalone è il necessario accessorio per lavorare. Non può salire e scendere dal camion senza pantaloni, e i pantaloni, siccome non esistono nella fattispecie per donne camioniste, probabilmente per donne viaggiatrici, per andare ad Orso di Cammello, per andare nei safari, per sciare, esistono pantaloni. Non esistono pantaloni da camionista. La madre l'ha adatta a una sorta, le adatta a una sorta di pantalone maschile, e lei con il suo 1,50 m, con i suoi 40 kg, probabilmente goffa persona per nulla legata a un senso di trasgressione, una bandiera di femminilità rivendicata, sale sul pedrellino del suo camion e inizia mestamente, o anzi allegramente, il suo lavoro. E a quei tempi mi sentivo quasi la George Sand quando andava in giro con Chopin con quei pantaloni in scandalo, e mamma proprio gridava lo scandalo, basta, non voglio vederti con quei pantaloni, ma mamma devo guidare, sono obbligata. La gente mi additava, arriva Teresina, guardala, è sua cassetta che guida, sta guidando il camion, largo perché ho una donna, pericolo in vista oggi si dice, ma a quei tempi ero l'unica ragazza in paese che avesse la patente del camion. E Teresina ce l'ha fatta nel disprezzo, nel dileggio, nel pregiudizio, comunque, a solcare la via principale del suo paese, a bordo del suo camion, come una principessa che entra vittoriosa nel territorio conquistato, non ha una carrozza, non ha un tiro di cavalli, ma un suo camion, ha la sua dignità, la sua forza. Non è soltanto lei in questa banca della memoria a darci dei barlumi di ciò che possa significare l'essere uomo e l'essere donna in tempi passati. I corteggiamenti erano bellissimi una volta. Per esempio, se andava a scuola, io andavo a scuola, ho fatto insomma il superiore, tutte queste cose, e allora tanti ragazzi, sti ragazzi ovviamente guardavano le ragazze, è giusto? Poi dici, questa per esempio mi piace, e allora incominciavano a seguire questa ragazza ovunque. Se una andava a messa, se una usciva, se andava a passeggiare, se... Insomma, e tu ragazza ti accorgevi insomma che questo ragazzo aveva un certo interesse per te. Vedete che nulla di nuovo alla fine sotto il sole. Oggi la chiave più bieca e più trasmessa e condivisa della seduzione, del rapporto di corteggiamento tra uomo e donna sono quelle trasmissioni televisive in cui uomini e donne stanno sotto le telecamere e recitano la parte dei cacciatori e delle selvaggine in fuga, o viceversa, recitano questo stillicidio interminabile e faticosissimo dialogo tra persone che devono tirarla lunga, perché devono rappresentare attraverso un copione improvvisato quella che è la contemporanea maniera di dare idea che possa esistere una fascinazione, un richiamo, un'attenzione tra uomini e donne, ma in realtà è di senso e di spessore ben diverso da quello che trapela dal racconto di questa anziana. Se tu non ci stavi, si arrivava al punto, io per esempio abitavo in Viamonte, che era una strada non molto lunga, e si verificava per esempio nel pomeriggio, cioè chi con la Vespa, chi con la bicicletta, perché allora tante macchine non c'erano, chi con la bicicletta, e c'era passeggio. Il ragazzo, quando insomma vedeva che la ragazza insomma ci stava, diciamo, allora si diceva, ti fermava, ti chiedeva per esempio, tu così e così e così, dice sì, e allora incominciava insomma diciamo lo stare insieme, però lo stare insieme era una cosa platonica, diciamo. Per esempio passavano e ti davano una cosa, e cioè per esempio la poesia, a me una volta me ne hanno fatto una perché mi chiamo Margherita, quindi sono la Margherita che si sfoglia, io ce l'ho tutte conservate queste cose, ed era bello, era una cosa meravigliosa. Ora per conto mio, però logicamente perché ho la mia età, certo che sembra di giocare con il paradosso quando si cita la rete come luogo in cui si conservino tracce residue di questi comportamenti passati, segnati, lontani. La signora anziana che oggi racconta inconsapevolmente, non sapendo che il suo racconto probabilmente avrà una possibilità di diffusione, di contaminazione che va oltre le sue capacità di percepirla. Lei che ne sa che oggi quello che le ha raccontato nel microfono di un ragazzo non sa bene manco per quale ragione, per quale idea, che andrà a finire non sa dove, come spiegare il concetto di rete a una persona di quella generazione che ancora conserva i ritagli dei bigliettini d'amore della sua fanciullezza lontana, della sua felice adolescenza, della stagione più felice della sua vita, e ne conserva quasi con la necessità di avere delle reliquie, dei contatti corporei, fisici. Immagino che passerà il lungo tempo ancora a sua disposizione nell'accarezzare, nel vellicare, nel assaggiare quello che è il sapore dei tempi lontani, dei periodi dimenticati, rimasto attaccato a quei pezzetti di carta. E oggi che non esiste più il supporto, oggi che l'inconcreta materia digitale che si fa veicolo delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, di quello che noi definiamo nostra storia individuale, la somma di tante storie individuali, poi fa la storia, quella con la S maiuscola, quella che rimane scritta nei libri. Ma libro non è già un termine che appartiene al passato. Dove rimarrà scritta la storia del futuro? Probabilmente anche nelle parole lasciate in questa radio, che forse da qualche parte andranno a finire. Alla prossima. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111.